termovalorizzatori, casse al termine, parchi eolici nel territorio di Vicari, opere connesse alla velocizzazione della linea ferroviaria Agrigento-Palermo, nonché uno stabilimento per la produzione di pannelli fotovoltaici. E poi ancora il mercato della frutta, i videopoker, storie di quotidiana infiltrazione della mafia, ma stavolta c'è qualcosa di diverso. Lo scopriamo in Storiacce col procuratore di Caltanissetta, Sergio Lari. Sono Raffaella Calandra e vi aspetto sabato alle 13:15 su Radio 24.